Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Questa volta sono stato puntuale, una puntata la scorsa settimana, una a questa, anche se ho appena visto che è da ben 3 volte che non pubblico il podcast, quindi penso che questa sera troverete ben 3 podcast pubblicati e non solo quello di oggi. E questa è la 39esima puntata, ma devo pubblicare ancora la 37 e la 38. Assolutamente non ricordo di che cavolo ho parlato, quindi metterò il podcast e basta, niente titoletti, troppa fatica a riascoltarmi. Oggi ho poche notizie, ma tutte abbastanza belline. Sono po poche, diciamo, ma poche chicche. Ce ne sono state un po' durante questa settimana. Con quella con cui apro è una cosa buffa, ma perché mi piace, perché è una vulnerabilità dal sapore un po' vintage, nel senso che stava all'interno di un applicativo, uno pensa di quelli utilizzati ma non particolarmente insidiosi. Nello specifico si parla di WinRAR, che è un coso per decomprimere file RAR oppure .ace o cose simili. Ebbene, questo applicativo, che esiste da tantissimi anni ed è vetusto, si porta dietro con sé anche un bug, precisamente da 19 anni, e c'è questo problema. L'hanno scoperto solo di recente. È un bug di quelli abbastanza insidiosi, considerato cosa fa l'applicativo. È un absolute path traversal, che significa che io posso aggeggiare l'archivio che ti sto dando, facendo in modo che quando lo scompatti comunque le cose finiscano dove ho deciso io e non dove mi hai indicato te. Forte, no? E questo sì, il problema nasce dall'utilizzo di una libreria esterna all'applicativo, che è questa Anase versione 2, nel senso che l'applicativo colpisce nello specifico i file .ace, però la particolarità è che comunque non vengono dedotti, diciamo, dal nome il formato del file, ma viene dedotto proprio da che tipo di file è. Quindi se io vi do un file che è un .ace, ma lo rinomino come .rar, voi pensate che un punto RAR, lo scompattate e non vi accorgete di nulla, e quindi tendenzialmente ci potreste anche cascare se non usate mai, neanche se voi manco sapete che cos'è sto formato ACE. Però comunque qualcuno potrebbe indurvi a scaricare un punto RAR in luogo di un punto ACE. Insomma, vi possono burlare se vogliono, ecco, sempre lo possono fare. E con questa prima notizia vi lascio un po' di musica. Mi preparo intanto la seconda, che sarà del tenore, ma parleremo invece di una cosa probabilmente di uso più quotidiano e frequente, perché parliamo di Facebook e di come esso vi traccia nei vostri spostamenti, anche quando lo lasciate in background, l'app di Facebook. Ecco. Be sad, lean on me when the times are bad. When the day comes and you are down in a river of trouble and about to drown, just hold on. I'm coming, hold on. I'm coming. I say, hold on. I'm coming, hold on. I'm coming. Rieccoci a parlarvi del vostro social network preferito, senz'altro. Allora, c'è uscito un articolo interessante, buffo in realtà, sono quelle cose assurde del funzionamento dei social, ma di cui vi ho parlato in realtà la scorsa puntata, di cui però non ho messo il podcast, e quindi comunque l'idea è quella che tutte queste cose tipo Google, insomma quelli che lavorano molto su il profilarvi per poi fare in qualche modo profitto di questa profilazione, necessitano di un sacco di informazioni aggiuntive, in qualche modo è il loro plus valore, no? Cioè più cose raccolgo di te e più sarò in grado non solo di farti vedere quello che ti piace, ma anche in qualche modo di indurti poi a acquistare qualcosa. Cioè se conosco i tuoi gusti potrei anche poi a un certo punto decidere di provare a modificarli perché il profilo che ho costruito realizzi veramente la previsione. A quel punto il mio profilo da un punto di vista pubblicitario vale un sacco di soldi perché è un profilo che mantiene le promesse. Cioè io lo vendo a qualcuno che fa pubblicità e tu veramente gli compri le cose. Ecco, per fare questo tutte queste app che utilizzate fanno di tutto per raccogliere più dati possibili. In particolare da un po' di anni si sa che Facebook raccoglie anche i dati di quando lasciate, ma avete comunque installato, però lasciate l'app in background, tipo usate l'app di Facebook, poi la togliete perché aprite un'altra app, questa rimane in background, essa comunque ve ne sarete accorti, tipo se uscite dal ristorante vi chiede ma com'era quel ristorante, tu dici ma come cazzo fai a sapere che ero al ristorante se io ti ho messo in background, perché nel contratto che firmate quando installate l'app c'è scritto che loro comunque vi possono controllare anche quando siete in background. Allora, siccome questa cosa qua aveva un attimo allarmato le persone, Facebook si sta a fare un sacco di figuracce in questo senso, hanno deciso che mettono una patch e adesso hanno messo un nuovo menu, complicatissimo da raggiungere, ve lo dico come si fa per Android, ma se avete iOS ve lo andate a cercare da soli, dovete aprire l'app di Facebook, poi dovete andare nel menu Settings, che sta in alto a destra, poi dovete fare tap su Settings and Privacy, poi dovete selezionare Privacy Shortcuts, poi dovete selezionare Manage Your Local Settings, Location Settings, e poi da lì finalmente arrivate alla voce Background Location che dovete mettere a off. Credo che di default sia a on. Se la trovate a off, if you enable these settings, quindi se voi l'abilitate succedono due cose. La prima che condividete la vostra location anche se non state usando l'app, e la seconda è che permettete a Facebook di salvare la storia di tutte la storia di vostri spostamenti con la precisione sostanzialmente che lui riesce a ricavare in quel momento, quindi appoggiandosi sia al GPS che ai wifi che a tutto quello che trova intorno a lui per capire precisamente dove siete. Quindi questo è quanto. Non sono sicuro, bisognerebbe guardare un attimo nella policy se questa cosa la trovate già off oppure on. Questo non si capisce perché si fa riferimento nell'articolo a una precedente voce che si chiamava Location History, che era messa di default a on. Poi però hanno aggiornato e quella nuova forse non è più così. Non lo so, comunque non me ne frega un cazzo. Fatto sta che questo è l'unico modo per... c'è un problema però, nel senso che con quella di prima ci sta che alcune funzionalità non funzionassero più. Cioè, siccome lui alcune funzionalità le legava a questa roba, non funzionano più. Dovete comunque controllare che non ci siano altre app che in qualche modo utilizzano queste API e ve la rimettono a on. Non so, oppure che non ve la possono rimettere a on, ma siccome utilizzavano l'API di Facebook per avere location, poi non funzionano più le altre app perché avete stoppato il servizio. Quindi bisogna anche considerare questa interdipendenza. E con queste belle notiziole, che a me in realtà non me ne frega niente, io non ce l'ho Facebook, però tendenzialmente se lo usate non capisco ancora perché, però sappiate che potete comunque disattivare in questo modo un po' trigoso questa future, che è quel motivo per cui poi andate in giro e ogni tanto vi si chiede com'era quel negozio di scarpe, credo almeno che sia quello, poi magari ce ne sono altri 1000, però se lo fa Facebook tendenzialmente per questo qui. A meno che non abbiate invece la app di Facebook bella aperta davanti, allora lì si capisce, perché lì in quel punto penso che sia il in qualche modo il consenso sia implicito. Cioè, nel senso che se lo tieni aperto, non so se gli puoi negare la geolocalizzazione. Non sono abbastanza pratico. Mi fanno cenno che puoi fare anche questa cosa. E funziona davvero? Dicono di sì. Cioè, smetterà di chiederti com'era il negozio di scarpe? Dicono che, non, che se non lo attivi mai, non te lo chiede mai. Io non ci credo. Io voglio prima vedere la prova dei fatti. Farò dei test. Non è vero, non li farò perché non me ne frega assolutamente nulla. Però io il mio l'ho fatto, cioè vi ho detto questa cosa importantissima. No, non è vero. Comunque se non lo usate, fate prima, ecco. Cioè, nel senso che si risolve proprio il problema alla radice, prima ancora che nasca. Avete solo da risolvere poi tutti anche quegli altri problemi che nascono dall'utilizzo dello smartphone, che è molto difficile. È praticamente un'arma di distruzione di massa lo smartphone, quasi. Forte, quasi quasi vi lasciavo la musica, che è meglio, molto meglio della mia voce, però ormai sono all'ultima notizia di questa breve puntata, però appunto ho tanta podcast da caricare, quindi insomma se avete voglia di sentire la mia voce ce ne sono in abbondanza, non garantisco la qualità di tutti perché non mi ricordo di cosa ho parlato per l'appunto, però tant'è. L'ultima notizia della giornata è che ha una convention di sicurezza informatica, si è parlato di attacchi riguardanti la riservatezza delle comunicazioni del 4G e del 5G, quindi anche del futuro attacco prossimo Venturo, cioè del protocollo prossimo Venturo. Il 5G se ne parla un sacco, mo tutti quanti si stanno attrezzando per il 5G, che è la cosa che ogni tanto bisogna tirare fuori la novità, così almeno c'è la scusa per buttare tutti i cellulari vecchi, perché uno dopo si deve comprare quelli che stanno sulla 5G. E questa volta forse qualcosa accadrà, perché pare non ci sia tanto spazio in realtà per continuare a tenere tutti i vari protocolli. Qualcuno morirà, probabilmente il 3G, secondo me il 2G no, perché quello base non, secondo me non lo possono togliere, è particolarmente comodo. Il 3G magari va a morire, si tengono il 4 e il 5 così per retrocompatibilità, e il 3 se lo cassano. Però questa è una mia previsione, non ve lo do per certo, non. Comunque quello che è successo è che hanno detto che cioè hanno scoperto alcuni ricercatori che è possibile per una, diciamo, per come è congegnato codesto protocollo, sfruttare alcune modalità che accadono nei momenti di emergenza, cioè quando si perde ogni contatto con la rete cellulare e si va in modalità sfiga sostanzialmente. È possibile sfruttare questa modalità d'emergenza, perché nel momento in cui arrivasse una chiamata per te, il telefono farebbe una specie di paging per notificarti, per cercare di notificare sostanzialmente al device che arriva la chiamata, però è un meccanismo di notifica emergenziale. In questo meccanismo di notifica emergenziale hanno costruito sostanzialmente due attacchi, uno l'hanno chiamato torpedo, e poi ce n'è un altro che si chiama Piercer, e poi un altro che ributta sul piatto l'IMSI Catcher attraverso una sorta di IMSI Cracking, così almeno l'hanno chiamato. Allora, a cosa servono tutte queste cose? Con Torpedo sostanzialmente si cerca di capire se un telefono sta attorno a noi, cioè si tenta di verificarne la location, magari per capire se è attaccabile, cioè se è nel raggio d'azione del mio, cioè della mia ipotetica area malevola. Ecco, e poi cosa ci si può fare? Beh, uno, gli si può fare il classico denial of service sfruttando questo paging un po' strano, cioè non vi faccio più accedere alla rete cellulare, vi continuo a dire che non ce n'è. L'altra cosa è che posso fare l'inject di alcuni fake alert, cioè che significa che sfruttando questa modalità d'emergenza vi faccio apparire sul del telefonino delle cose che posso forgiare io me medesimo che sto portando l'attacco in questa situazione appunto di stramba emergenza, e questo pare funzioni sia per le reti 4G che per le reti 5G. Gli altri attacchi sono un pochino peggiori, nel senso che espongono una roba che è abbastanza importante, che è l'IMSI. L'IMSI sarebbe un numerino di, mi sembra, 15 cifre, che identifica, che è legata alla vostra persona. Cioè è legata, diciamo nello specifico, identifica la vostra, mette assieme la vostra persona al vostro numero di telefono. Non va confuso con l'email, che invece è legato al device. L'IMSI è legato proprio alla vostra SIM. Sta scritto lì, in una parte non sovrascrivibile, cioè non scrivibile, della vostra schedina del cavolo. E quello che è possibile fare, che hanno scoperto, è che è possibile sfruttare sempre queste modalità di emergenza per far transitare un messaggio in particolare. Questo messaggio in particolare contiene in realtà, anziché il TMSI, che è un temporary, cioè è come l'IMSI ma è temporaneo, quindi cambia spesso. Quindi anche se io lo intercetto, comunque esso cambia e mi vale solo un po'. Se invece trovo l'IMSI, quello è permanente. Ecco, in una queste modalità d'emergenza, al posto di mandare il TMSI, questi messaggi mandano direttamente l'IMSI. E questo riapre sostanzialmente la storia degli IMSI Catcher, cioè di quei cosi che, conoscendo il vostro IMSI, si burlano e fanno sostanzialmente una finta cella che permette di sovrapporsi all'altra cella, quella legittima, fa da ponte, quindi fa di fatto una sorta di man in the middle, però su un oggetto come il cellulare, sul quale transitano appunto messaggi, voce, eccetera, eccetera. E questo quindi era per lazionarvi anche sul fatto che i nuovi standard, ancora prima che escono, già sono un pochino rotti, e la cosa un po' brutta è che sono rotti proprio by design, cioè c'è un problema proprio di come li hanno strutturati, e quindi niente, era un po' per terrorizzarvi un pochetto. Ora me la rido, anzi vi metto anche la musica funky per burlarmi ancora di più. Oh, oh, oh. su questo pezzo un po' funky, un po' psichedelico anni 70 vi saluto. Le notizie di quest'oggi sono state poche, ma spero di vostro gradimento, se no pazienza. Avevo detto la scorsa volta che avrei anche introdotto e annunciato il blog associato a questa trasmissione. In realtà deve aspettare ancora un paio di giorni, nel senso che lo introdurrò lunedì prossimo, perché non ho avuto tempo ancora di condirlo con gli articoletti che avrei voluto. La prossima settimana prometto che ci saranno almeno due o tre articoletti e quindi lo posso finalmente lanciare. Ora ce n'è uno solo piccolo e non mi sembra poco ancora. Volevo mettere più carne al fuoco, no, la carne no, volevo mettere più melanzane con quello che costano, forse. Vabbè, insomma, volevo fare più, cioè scriverne ancora un paio. Con questo chiusura vi saluto, vi do appuntamento a lunedì al prossimo. Saluti a tutte e a tutti. Ciao ciao.